ci sono Dio e Gesù e giusto, erano i loro, sì, i tre. Però c'era anche Maria. No, Maria c'è, però non è qua. Maria è lì dall'altra parte del vetro. Ma non è una di quelle che ha collaborato con te per questa super mega galattica serie? No, Maria ci guardava dall'alto dei cieli, ci ha protetti nel nostro viaggio in Albania durante la produzione. Bravissimo. Produzione internazionale. Produzione internazionale, mica pizza e fichi. E no, dicevo, sono qua io, ma in realtà il progetto Status, di cui parleremo stasera, è stato scritto e diretto anche da altri due registi, che sono Margherita Ferri e Renato Giuliano. Oh, ecco, e questo salutiamo, è perché dovrebbero essere collegati, ma non sono potuti essere qua stasera. Ciao belli, saranno sicuramente collegati. Dai. Vabbè, però poi magari verranno a trovarci anche loro più avanti. Mi hanno riconosciuto? Ma sì, dai, sono Ivan. Ivan W e JJ. No, io sono troppo contento di essere co-conduttore occasionale con la Banti. Sei un coco-oc. Un coco-co. Coco-oc. Assolutamente, assolutamente, uno spettacolo. No, tra l'altro, diciamo che io ti ho diretto in un videoclip anni fa. E adesso ti dirige lui, cioè ti fa il pelo e il contropelo con le domande e le domandine. Pensa che Ivan era un personaggio che aveva in testa un mascherone di cartapesta fatta da un artigiano. E il mascherone era identico a Ivan. Ricordi? Sì, io l'ho visto quel video. È quello degli Stratten. Magari lo tagliamo per il blog domani, insieme alle foto per documentare questa mega galattica puntata, che è la 189esima. Però facciamo 190 settimana era prossima. Era un Ivan al cubo all'epoca. Come ora lui è un Labanti al cubo, capisci? No, è sempre per tre che non sappiamo cosa sia, vero? Sì, anch'io non sono forte in matematica, non riesco a 333-180-94-94 se sa come si può definire un Labanti moltiplicato per tre. Ecco. Esatto. Va bene. E con questo abbiamo presentato il super mega ospite, sì, con la sua bella voce e tutte le sue J. Quindi abbiamo fatto andare la sigla, abbiamo introdotto anche il co-conduttore e siamo nei tempi tecnici per mandare un branino, giusto per fare tutto proprio preciso, precisino e andare al secondo. Mandiamo il branino. A me la musica mi piace. Io vi mando un compliment, mi sa. Vediamo se poi sì, così. Dai. I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why is my impressiveness written off like as it was of course a ness? This is importantness. Give me answer or compliment. You choose. Give me compliments. I said I give me compliments. Give me compliments. I said I give me compliments. Maybe my compliments is under here. No compliments here either. Taking out the trash, no compliments. Respecting trafficking rules, no compliments. Got to work on time, no compliments. And I dressed myself today, no freaking compliments. Every day I do chores like a donkey. There is the applause like the circus monkeys get. It's not fair, I'm doing my best. Look at that child being rewarded with a breast. Give me compliments, I said I give me compliments. Bitte schnell. Give me compliments, I said I give me compliments. Bitte schnell. Not giving away compliments, are we? Jawohl, typical. Where is my great job? Where is my good work? Where is my pat on the head? Where is my, oh my god, you are the most impressive human being I have ever met. Point being, where is my compliment? Schnell, bitte, bitte, schnell, bitte, bitte, schnell. Schnell, bitte, bitte, bitte, compliments, schnell. Give me compliments, I said I give me compliments. Give me compliments, give me compliments. I said I give me compliments. Where's my compliments? Give me compliments, I said I give me compliments. No, give me compliments. Give me compliments, I said I give me compliments. Please help me, I'm starving for compliments. Hey, redesign, you schnitzel, I want compliments, not money. Oh, sorry, you have a nice turtleneck. What, or me? Oh, thank you, it's really kind of, I just threw something on this morning, nothing special. Thank you, I mean, I'm really bad with compliments, but thank you. Mom. Non sento più niente. Voi mi sentite? Sì, io ti sento forte e nitida. E io non sento più. Compliments. Ah, sì. Ecco. Bello il pezzo. Ma c'è ancora. Scusate. C'è qualcun altro. Chi è? C'è stato il nostro momento. Ah, sta chiamando qualcuno, provo a rispondere. Prova. Intanto voi chiacchierate, io mi acquisto un attimo. Noi chiacchieriamo, di cosa chiacchieriamo? Io sto postando la nostra foto su Facebook. Fai bene. Per fare pubblicità alla serata di lunedì. Bravo. Di status. Perché tu sei qua per questo motivo. Io sono qua per fare pubblicità alla mia serie web che proiettiamo alle serre lunedì, sì. 4 settembre verso le 21, se non vado errato. E ringrazio gli amici di Kilowatt, Lorenzo Burlando e company che ci hanno invitati. E vi aspettiamo tutti. Vabbè, io perciò vado. Allora, io vi chiedo di fare una cosa estremamente importante e forte che solo dei veri professionisti della radio, quali sono WJJ, possono fare, ovvero continuate a parlare facendo finta di niente con i nostri ascoltatori, mentre io metto un fuori onda per parlare con l'ospite telefonico e mi eclisso. Che sarà la grande sorpresa, perché stiamo cercando con i potenti mezzi della radio di collegarci con uno degli attori del cast di Status. Ci vuole, il regista non ci bastava. Ce l'avete fatta? Uno dei registi non ci bastava. Ce l'avete fatta? È in linea. Sì, ce ne abbiamo uno. Ce ne abbiamo uno. Ma chi è? Quello col naso lungo? Ma vediamo, è questo qui che è anche già stato al Coxo. Ah, allora è quello col nasone. È un po' biondo. Come un frequentatore. Sei un frequentatore di frequenze. Un coxonauta doc. Ciao Filippo Pagotto. Ciao Filippo Pagotto. Come state? Ciao a tutti, bella gente. No, ma quindi eravamo arrivati al punto che abbiamo introdotto bene il motivo per cui il nostro regista è qui. Sì. E questo è un attore, giusto? Attore, e lui si spaccia per attore poi. Fa tante cose. Sì, è vero, tante cose. Però diciamo che l'attore è la professione che mi ha cresciuto. Parto da lì. Però è quella che ti riesce peggio, dai, di la vita. Ma anche secondo me, effettivamente. Guarda che ogni attore si spaccia per attore, eh? Anche così. I non attori si spacciano per attore. Ma certo, di mestiere fa l'attore per fare l'attore, no? Sì, esatto. Va bene. Comunque, sì, è la mia prima, diciamo, professione. Poi dopo, durante il percorso, ne ho raccimulate altre, però diciamo che quella è, diciamo, la matrice. E caro Filippo, all'interno di Status, sì. Che cosa sei stato? Status. Diciamo che sono una mina vagante, una specie di jolly, perché in realtà io ci sono in alcune puntate, non sono... Cioè sono un, come dire, vengo ricordato come un personaggio fisso, ma non è così. Ma in realtà come no? Poi... Ma no? No, lo sono, ma... Dai, avanti! Nella seconda stagione abbiamo praticamente scritto la seconda stagione su di te, dai. Sì, questo è vero. E è sulla vero, sua assenza. Sulla sua assenza. Viene ucciso nella prima puntata della seconda stagione. Ma di questa poi ma tra no, è spoilerato di brutto. No, ovviamente non è vero. Ah, davvero? No, è vero. Pensavo è vero, uno scoop. Era una clausola che avevo messo per la mia partecipazione alla seconda stagione. Sì. Devo morire. Il suo agente ha insistito molto perché lo uccidessimo. No, quindi no, dai, sono, sei il migliore, diciamo, un jolly, sei il migliore amico del protagonista. Sì, sono il migliore amico del protagonista, sono quello che riesce in un certo senso a macchinare perché il protagonista riesca in qualche modo a riavvicinarsi alla persona che ha perso. E scusate, quindi, in questa introduzione abbiamo già spiegato anche un po' per somme linee la trama, il... No, in effetti ci siamo dimenticati. Dai, facciamolo adesso. Beh, la faccio io. Vai. Allora, il mio miglior amico, il Socia, interpretato dal grandissimo Edoardo Lomazzi, praticamente ha una doppia vita, diciamo così. Fa il botanico o il chimico e da un'altra parte invece è ovviamente, come sappiamo da tutti, io intanto guardo le facce che fa l'Avanti ascoltando è uno spacciatore ed è fidanzato con questa ragazza che invece è una cooperatrice internazionale. Aia. Appena laureata. Aia. No, ho sbagliato? No, va bene. Che si chiama Stoia ed è la grande Eleonora Giovanardi, che il grande pubblico ricorderà per la presenza su Che Cazzalone e che si sta ascoltando, salutiamo tanto e che è molto desiderosa di fare la seconda stagione di Status. Ma il nome Stoia, la cosa particolare che ce lo siamo inventati, è un aereo, non vi preoccupate. Sì, è Cox che sta stiamo decollando arrivando. Il nome di Stoia è stato adesso ho chiuso la finestra, si sente un po' meno. È stato pensato in onore di una famosa porno star americana. Ah certo, sì. Sì. Ma storica, si chiama Stoia, cioè... e che adesso non fa più la pornostar ma fa la diciamo l'artista. Ma qual è la differenza? Capita. Esatto, qual è la differenza? Tanto gli artisti sono tutti un po' così. Creatività. Infatti dovremmo invitare qualche pornostar al Cozzo. Insomma, Jeff Koons, adesso a parte questa divagazione, queste sono le chicche. Succede che tra i due viene a mancare la fiducia e quindi lei decide, approfittando anche di questa situazione che non la rende felice, di partire per un'avventura che la porta in Albania, in una come la possiamo chiamare, Davide? Una ONG. Una ONG che produce vino, insomma. No, in realtà produce vino. Cioè, produce vino. Questa ONG, in realtà c'è una cosa da dire, trae spunto dalle esperienze vere e successe di Cefa Onlus, che è una ONG di Bologna. Eccola, questa era la cosa che volevo. Bravo Davide, bravo JJ. Loro ci hanno fornito un po' di informazioni rispetto agli episodi successi nella loro decennale attività in giro per il mondo. E la cosa interessante di Cefa Onlus, e che anche Status, la nostra ONG finta, riproduce, è che Cefa Onlus, a differenza di tante altre ONG, non agisce sull'emergenza, cioè c'è un'inondazione, vanno lì, prendono i soldi di qualche stato che ha messo a disposizione e poi se ne vanno. Vanno a fare cooperazione internazionale nei paesi che non hanno un'emergenza, perciò cercano di scambiare un know-how con le popolazioni locali che rimanga stabile. Poi quando hanno insegnato a fare il vino, si levano dalle scatole. Perché sennò rischia di diventare un'esperienza. Prima lo assaggiano, però. Prima lo assaggiano e lo bevono molto. Poi vanno. Sì, lo fanno bere anche gli amici. Insomma, senza poi svelare troppo della trama che andremo a vedere per chi non ha visto le serre. Insomma, praticamente lei parte per questa esperienza in Albania e io sono quello che riesce a far partire, visto che lavora in collaborazione con l'associazione di Stoia, insomma con la ONLUS di Stoia. Riesce a far partire il Soccia in soccorso, perché succedono alcune cose, quindi lui ha una certa conoscenza nella botanica, nelle piante, e quindi lo riesce a far partire, e poi dopo non diciamo più niente, altrimenti raccontiamo tutta la trama. Bravo, bravo, perché alla fine mancano pochi giorni a questo momento epico ed eclatante. C'è tutto un intrigo internazionale. Che verrà svelato per intero, almeno fino al cliffhanging che ci terrà sospesi fino alla seconda serie, lunedì alle serre. Esattamente. Esatto. Vi aspettiamo, ci saremo io in prima fila, Margherita, io in prima fila. A te lasceremo la serie in prima fila. Forse c'è anche Pagotto, se fai il bravo. Lui in fondo. E forse viene anche Edoardo Lomazzi da Milano, perché forse deve venire a Bologna per un lavoro e perciò passerà, speriamo, alle serre. Sapete che io sono fan di Lomazzi? Beh, sì. Tra l'altro l'hai già detto che eri con lui. È stato anche qui al Coxo, Ma l'hai già detto che eri con lui alla scuola di teatro. Che hai fatto anche tu. L'ho fatto anche È proprio tutto un inciuccio. Amici di amici, ma io dico. Ma è tutto un magna magna qua. Ci conosciamo tutti. Ma comunque a me interessa molto la questione che è una serie mandata tutta in una sera. Cioè, a me piace molto questo discorso. Sì, mi dicevi anche prima che poi... È una cosa che abbiamo già fatto a Kinodromo nel 2015 per festeggiare l'anno dall'uscita su My Movies, perché la serie inizialmente uscì su My Movies novembre del 2014, e abbiamo rimontato le 10 puntate togliendo le sigle finali, le sigle iniziali, smussando qualche stacco di montaggio, e devo dire che la proiezione si gode bene ed è un film di 1 ora e 40 che ti guardi proprio sereno, tranquillo. Sono molto curioso. Poi, Venendo a questa cosa del formato, no? Mi chiedevo, le puntate sono visibili? Sono visibili, ma non diciamo dove. Ok, lo diremo dopo. Però volevo chiederti come si compone una puntata di una webserie. Ovviamente sono a tempi più contratti. Quali sono le specifiche di questo medium? Beh, allora diciamo che domanda semiotica. Tendenzialmente quando fai un prodotto che ha uno scopo commerciale, ti devi confrontare prima di tutto con la domanda: che formato voglio? Perché per esempio in questo caso il formato era dettato dal concorso che noi vincemmo girando gloriosamente il pilota nel marzo del nell'aprile del 2014, e poi abbiamo girato il resto delle serie. Perciò il concorso era indetto dal Milano Film Festival, che produceva la serie, e loro avevano detto: vogliamo 10 puntate da 10 minuti, perché a quei tempi erano considerato il formato più giusto per il web. I The Pills, tutti gli youtuber viaggiavano un po' su quella pezzatura lì. E adesso però, per esempio, per la seconda stagione stiamo pensando di fare 6 puntate da 24 per la televisione, perché vorremmo fare il passaggio in TV. Fondamentalmente, quando scrivi una serialità lunga, ci sono linee narrative orizzontali che devi tenere molto ben presente, cioè dalla storia, da quando inizia a quando finisce, e poi le singole linee narrative verticali si chiamano, che sono le micro storie che si aprono e si chiudono all'interno di una puntata, che ovviamente, perciò tu porti avanti la narrazione sulle 10 puntate, e in ogni puntata succede quel qualcosa di autoconclusivo, sostanzialmente. Altra domanda: com'è stata quindi aver accolto questa la sfida? Posso dire una cosa? Vai. Volevo dire una cosa, che me l'ho dimenticata di Palotto. No, infatti anch'io me l'ho dimenticato di essere qui con voi. No, volevo dire che proprio quello che stava spiegando Davide in questo momento è che è anche una caratteristica che, quando è stata girata la serie, le serie web non avevano questa peculiarità, no, Davide? Nel senso, tutti pensavano, cioè, i The Pills, faccio per dire, o altre serie web che si conoscono, italiane, adesso io non so quelle straniere, però quelle italiane erano delle puntate a sé stanti, da sole, sì, non avevano un'orizzontalità, sì. Quindi è stata anche un po' una scommessa questa, diciamo, nel senso che comunque è stata anche la prima volta che si faceva un'operazione del genere. Sì, forse sì, perché in effetti sì, ha ragione Filippo, di solito le serie web sono autoconclusive e l'unico fil rouge nelle varie puntate sono i personaggi. È un po' come i telefilm degli anni 80, c'era Magnum P.I., ogni volta succedeva qualcosa, certo, ma non è che la puntata dopo riprendeva quella prima. Invece noi abbiamo fatto Manu questa cosa, bello. Hawaii, Ferrari, bagni in mare, sì. Non male. No, Nani, ho immaginato Filippo Pagotto con la camicina. E poi tra l'altro ci assomiglia anche un po' a Tom Selleck. Magari, no, magari, ragazzi, un magari. Sì, un pochino sì. Che Tom Selleck, sembra uno uscito da un silos nucleare. Beh, è un po' che non ti vedo, però dai. Vabbè, sono migliorato, sei migliorato? Sì, sono migliorato. Per fortuna. Le emorroidi le hai ancora? Sempre. Okay. Quello è sempre tipico dell'attore, per tenerlo bello. No, è tipico di uno che beve dell'alcol. Ma delle emorroidi si può parlare in fascia protetta? Ma no, vabbè, ma non è mica vero. Dai, beh, in fascia protetta. Ma per dire. Altri problemi. Un'altra cosa che volevo dire. Che sono stato stupito le prime volte che ho visto le riprese. Comunque, sia della regia sono stati bravissimi loro tre. E lo dico sinceramente, perché non sono uno che fa complimenti a caso. E c'è stata anche una magnifica selezione delle persone che ci hanno lavorato a livello attoriale. Io non trovo una persona lì in mezzo che non abbia fatto un buonissimo lavoro, e quindi, cioè, al di là anche dei protagonisti, voglio dire, anche le figure che erano più marginali, comunque, che sono, sì, importantissimi. Sono stati bravi loro a selezionare e a fare dei provini per poi tirare fuori veramente il meglio di tutti quelli che sono venuti. E infatti, secondo me, a livello attoriale, che poi è sempre stretto connesso con chi lavori, nel senso che un regista riesce a valorizzare tutto questo, e loro tre sono riusciti. Però a livello attoriale devo dire la verità che mi ha stupito trovare comunque una squadra che dal primo all'ultimo fossero tutti di qualità. Sai cosa? Non so se tutti di qualità, però comunque perfetti per il ruolo che facevano. Sì, anche gli attori a dare il meglio. Anche, insomma, gli attori almanesi sono stati molto bravi. Soprattutto, sono bravissimi. Sono bravissimi. Veramente bravi. Ricordiamo, provo velocemente a dire tutti i nomi. Allora, Edoardo Lomazzi, Eleonora Giovanardi, Marco Manfredi, Filippo Pagotto, Pier Giuseppe Francione, Castro Cehi, Eglatina Ceno, Jensi Fuga, che sono attori in Albania molto conosciuti, tra l'altro, e tra l'altro quasi tutti parlavano benissimo italiano. Giuseppina Morara, Pier Francione, l'ho già detto. Chi manca ancora, che mi sono lasciato indietro? Ah, beh, poi le comparse albanesi, sì, combattute, che sono state molto carine, erano delle signore veramente della vecchia ONG fondata da Cefa, e facevano amministrazione, erano delle amministrative di questa ONG albanese ormai, e hanno recitato, sono state molto brave, molto, molto carine. E perciò sì, è vero, tutti molto bravi, tutti molto disponibili, l'Albania è un paese meraviglioso. Quindi seconda stagione tutta in Albania? Eh sì, sì, cioè ci sarà anche una parte di Bologna, perché bisogna metterci dentro anche un po' di Bologna, ovviamente. Moshi, tortellini, tagliatelle. Però torneremo in Albania, assolutamente sì, perché è un posto che ci ha, almeno personalmente, ma credo anche gli altri. Ma è interessante. Sei contento, Pagotto, che andrei a morire in Albania? Beh, sì, cavolo, è la prima, non ci sono riuscito ad andare. Ma come ti chiami nella serie? La musica balcanica. Io, Francesco Maria. Francesco Maria. Maria di nome? Di cognome? No, no, è nome. Francesco Maria ha il doppio nome, sì. Carino. Non so perché gli abbia dato quel nome lì, però gli sta bene, però. Ma manco io lo so, però insomma. Sì, però l'ha interpretato. Sì, c'hai la faccia da Francesco Maria. Vero? Sì, sì, sì, sì. E purtroppo nella prima stagione il suo personaggio non aveva nulla da fare in Albania, rimaneva a Bologna, invece nella seconda stagione... Va a morire. No, in realtà non muore. Come no? No! Ma non svelare! Non muori. Però ti succederanno, ti succederanno brutte cose. Vive ma in coma vegetativo. Beh, ma l'amico è così. Ecco, possiamo istituire un concorso? Allora, provate ad indovinare che cosa succederà a Filippo Maria nella seconda stagione. Chi indovina vincerà. Ma non indovineremo mai. E magari se dite qualcosa di molto interessante lo introdurremo nella sceneggiatura, cambiando il volo. Con pagamento di indovina viene a fare della bassa manovalanza in Albania. Ma cosa allora, drammatica. No, vabbè, drink card al chinodromo. Drinkonomo. Allora, ragazzi, è stato bellissimo. Sì. Ringrazio tantissimo Filippo Maria. No, Filippo Pagotto. Allora, però siamo richiamati al palinsesto. Palinsesto è sempre lì. Tra un po' incombono le speciali pubblicità delle 9:30 con tutto ciò che ne consegue. Perciò io direi, per concludere questa prima mezz'ora a tema, che ha lasciato fuori la domanda che ti farò a questo punto nella seconda parte della trasmissione, io farei andare il trailer da YouTube, speriamo che la tecnologia ci aiuti, così entriamo un pochino anche nelle voci, nelle atmosfere. Volentieri. Lo faccio partire dall'inizio? Sì. E salutiamo Filippo Pagotto, grazie per essere stato con noi. Ciao Filippo Pagotto, ci vediamo lunedì, mi raccomando, non bidonare. Certo. In fondo alla platea. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Anche a te. Ciao. E allora io vado con proviamo, vediamo, è questo? È lei. Bene. La sussistenza infatti non può dipendere dall'esterno. Tornato, basta cazzate. Io me ne vado. Parto per i Balcani per la Spagna. Cosa c'è lì? Non ho mai visto una cosa del genere. Per ora bruciamo le piante malate, ma dopo dobbiamo capire di che si tratta. Grazie, signor. Tu devi dimostrarle che sei cambiato, quanto vali. E non quella cosa lì che sei adesso. Dovremmo coinvolgere le donne. Come, scusa? La vigna per gli uomini. Per ora abbiamo pensato di fare un sericultura per allevare i bacchi di secco. Oddio, facciamo un passo alla volta. Vi presento il nostro nuovo agronomo. È qui. Fortunato Soccorso. Che nome è già un programma. Chi cazzo ti ha detto di spacciare quella merda in casa mia? Le ricette sono veramente una bomba. Fortunato, ricordati, open mind in Albania, open mind. Combinami un casino simile e ti rimando in Italia a calci. Sto cercando di non perdere contatto con la gente. Tu sei quello nuovo. Adesso li faccio qua gli affari. E tanti anche. Io voglio i fatti. Yeah. Cox spaziale. Avete sentito che pubblicità, ragazzi? Cioè, vi rendete conto? Molto belle. Radio molto Città belle. Fujiko, noi, il Coxo e voi, WJJ. No, ricapitoliamo. Seconda parte della 189esima puntata di Coxo Spaziale, che riprende stragalatticamente con Status, con qui presente Uno e Trino, Davide Lavanti. JJ. Allo per l'occasione. Mi raccomando. E co-conduzione occasionale, Coco-Hoc, di Ivan W. Rizzotto. Yes, I am. E adesso c'è una cosa che a chi ci segue, voi non lo sapete, che fa voi non ci segue. Fa impazzire come la liquirizia al cinema. No. Che è un must di questa puntata, come la sigla, due cose che da 4 anni non cambiamo, ovvero la nostra rubrica. L'angolo della menzione. E adesso siamo pronti, perché il falettino voi ce l'avete. Chi va con la prima? Vado io, via, dai. Questo bel W. Rizzotto. Vado con la menzione. Sì, la menzione. Sì. Da venerdì 1 a domenica 10 c'è la 24esima edizione del Festival Crisalide, Teatro Felix Guattari, sede principale Forlì. Il festival, che da anni intreccia una rigorosa ricerca sulle arti performative e proteiformi indagini filosofiche, avrà luogo principalmente nel Teatro Felix Guattari. Altri spazi della città utilizzati saranno la Fabbrica delle Candele e il Punto Donna. Questa edizione proporrà un denso programma di teatro, musica, danza, tutta al femminile, video performance, incontri e workshop, a cura di artisti e studiosi italiani e internazionali. Devo dire la mail? No. No, allora va benissimo così. E dico io, questo perché non me lo playa? Ah, eccolo. Eccolo là. Eccolo qua. È un po' giù di volume. Chi va con la seconda? Vado io? Dai. Sabato 2 e domenica 3, dalle 15, Bologna by Night Laboratorio, chiocciola via Borgo Nuovo. Che sarebbe at, insomma, perché abbiamo cominciato a fare così. Capito. Hai mai fatto perdere il filo. Laboratorio di preparazione alla performance partecipativa Bologna by Night. Si tratterà con l'accento, la mappatura e la pratica del camminare. Ci scambieremo esperienze, racconti e strategie, tra virgolette. Faremo un esercizio collettivo e una camminata di prova a coppie. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutte le donne. Se volete partecipare, scrivete a cts@virgilio.it. E ovviamente tutti i link da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, dove potrete vedere le foto in studio con questi super mega galattici e anche gran pezzi di gnocchi che sono i miei ospiti e co-conduttori. Stasera. E in più riascoltare questa puntata, che si avvale anche della super mega galattica partecipazione telefonica di Valentina Medda. Ciao Valentina! Ci ha lasciato. Eccola! È stata un po' lunga, sei stata pazientissima. Benvenuta al Coxo! Grazie. Allora, sono qui con Gaspare Calini. Scusami, ma per caso hai il viva voce? Sì. Perché ti sento un po' male qua dalla radio. Sei distante, allora, Valentina. Aspetta. Sì. Valentina Medda. Aspetta. Aggiustai. Aspetta che lo tolgo. Che stai facendo? Eccoti, guarda che arrivi anche tu. Ciao Vale. Ciao. Ciao, allora dicevo, sono qui con Gaspare Calini, che farà il laboratorio insieme a me. Ciao a tutti. Ciao Gaspare, ciao. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Facciamo il laboratorio domani e dopodomani. Domani dalle 3 alle 5 più passeggiata, e dopodomani domenica dalle 11 all'1. Per discutere tutte queste belle cosine che avete annunciato in preparazione poi della performance finale che avverrà durante i giorni di danza urbana. E allora, performance di mappatura. Io sono curiosa di due cose principalmente. Prima, questo tema della mappatura. E anche il fatto che sia in via Borgo Nuovo senza un numero civico, quindi proprio si cammina un po', sarei curiosa della dinamica. E poi mi incuriosisce anche questa cosa che il laboratorio è gratuito e aperto a tutte le donne, ma vuol dire che ci sono solo donne o che gli uomini pagano? Cazzo, non ci abbiamo pensato, potevamo far pagare gli uomini? Gli uomini pagano. Sempre, o dovrebbero. erano bei tempi quelli, cara. Una mappatura dolorosa per noi. No, allora è aperto alle donne perché è quello che ci interessa, il discorso che ci interessa sviluppare durante il laboratorio e che è poi alla base del lavoro Cities by Night, in particolare in Bologna by Night, è quello della percezione delle donne, della percezione del pericolo delle donne nello spazio pubblico. Tema molto attuale. Che è abbastanza attuale e che va differenziato ovviamente dalla reale pericolosità dello spazio. Esatto. Ed è proprio quello su cui lavoreremo e faremo lavorare le donne, cioè il che cosa crea la percezione di questo pericolo. Partiamo da Via del Borgo 22, non è vero? Via del Borgo o Via Borgo Nuovo, scusami? Via Borgo Nuovo, ah, okay. Oddio, Via Borgo Nuovo. No, perché se no correggevo il file, perché qua il Coxolo e Rorino ci sta sempre, oggi ne abbiamo ancora fatti e quindi... Il Borgo è nuovo. No, non ascoltatevi, Via Borgo Nuovo. Bene, bene, allora è giusto, non lo correggo. Non correggere. Come nasce questa collaborazione? Questo laboratorio a due, anche se poi vuoi ha voglia di intervenire anche il sì, tuo... infatti ti passo su questo, faccio rispondere a Gaspare. Ma la collaborazione è nata perché da tanti anni ci conosciamo io e Valentina, e lei mi ha coinvolto in questo, nel laboratorio, nel progetto in generale. Io di formazione sono un semiotico, ma mi occupo anche di mappature urbane. E in particolare di una cosa che riguarda le mappature urbane, cioè del gesto di fare la mappa, cioè del gesto di dire ok, questa cosa la metto là sopra e questa cosa non la metto, e lavoreremo molto su questo nei due giorni, non solo su questo ma molto su questo. Adesso non voglio dilungarmi troppo, non voglio appesantire la conversazione, ma principalmente questa cosa qua. Beh sì, anche perché purtroppo lo spazio di una telefonica è assai breve. Io intanto vi butto lì che a me questo tema della mappatura interessa da non poco, cioè che è un po' che se ne parla, specialmente qui a Bologna ci sono state diverse occasioni di ricerche e spesso mi è capitato di provare ad andare a fondo chiedendo un po' alla Coxica, come faccio io, ma mi venite a trovare al Cox e facciamo una puntata sulle mappature, su come si possono lavorare come strumenti di analisi estetica? Ma assolutamente. Sono rimasti basiti. Sì, no, sì, guarda, mappatura. Io sì. Personalmente non sono rimasta basita, ho guardato Gaspare della serie. Sì, è vero, perché non è che io posso degli anni. Artista sono, che devo dire. Vabbè. Quindi bene, colgono. Beh, innanzitutto con Valentina ci vediamo la settimana prossima, che sarà la super mega galattica ospite della 190esima puntata. Wow. Ho fatto proprio lo scoop, così, l'ho lanciato nell'aereo. Quindi questo era un assaggino. Sì, però ciò nonostante mi interessa veramente questo tema, magari prossimamente, perché poi Valentina principalmente vive a New York, quando mi ritorna ripeschiamo anche Gaspare e facciamo questa puntatona. Ho detto il nome sbagliato? No, ho detto giusto. No, perché, va bene, ok, dai. Allora, noi ci vediamo quindi sabato dalle 15 e poi già mi farò già un'idea, perché sono donna, posso venire, no? Ok. Certo. E vi ringrazio tanto per essere stati con noi e a prestissimo. Ciao e grazie. Va ciao. Buona ciao, serata. A voi. Ciao ciao. Beh, avete sentito la menzione con Telefonica, come poteva mancare a questo inizio di stagione? Però noi di menzione ne abbiamo un'altra. La leggo io. Certo. E se faccio gli errori? La padrone di casa. Non ti preoccupa. No, c'è un JJ qua, sì, attenzione. Allora, lunedì 4, ore 21. E 30. Ecco, grazie. Leggiamo insieme a macchia di leopardo. Status. Indipendente italiano. È il titolo completo? No, cioè Indipendente italiano è il titolo dell'evento. Okay. Il nome è Status la serie. Ok, va bene. E alle Serre dei Giardini Margherita. Versione integrale della prima stagione della web serie scritta e diretta a tre mani da Margherita JJ Ferri, Renato Giuliano e Davide Labanti. Io non so chi amo di più di questi tre. Liberamente ispirata ai racconti dei volontari della storica ONG bolognese CEFA, il seme della solidarietà Onlus. Esatto. Con stacchetto. Che dai, carina, ce l'abbiamo fatta, le menzioni sono andate benissimo, sono tanto contenta, molto coxica e posso chiudere finalmente sto file delle menzioni che mi mette l'ansia ogni volta che comincia la puntata. Ciao. E invece ritorniamo su con la possibile playlist, perché adesso ci sta un branino. Ma per sì, ritornare un pochino, fammi ballare o no? Vuoi ballare? Cosa mi metti? Sei indecisa. Ma quel brano che era partito prima per sbaglio, che dura 3 minutes, di Paolo Conte, La Petite Tendresse. Paolo Conte. Facciamo quello? Sì, che mi piace. Lui è sempre perfetto. Lì. Io sono il Conte. Allora andiamo col Paolo anche. Dai, è forte, tigre. Una cosa che piace di più al Cox è sgamare le chiacchiere che fanno dall'altra parte. Cioè proprio da denuncia. Io e Davanti era un po' che non ci vedevamo. Sì, E cosa vi stavate dicendo? Stavo parlando della Sicilia. È bella la Sicilia. Di vita, E la Sicilia c'entra anche con la persona che forse, dico bene, è in traghetto adesso. No, non sta tornando dalla Sicilia. Isola, che è la Sardegna. E chi è quella che forse abbiamo con pochissimo campo? L'ho già riconosciuto dal ghigno. Ippocampo. Come dal ghigno? Sì, in effetti vi sto sentendo in questo momento. Ciao, bell'uomo! È Marco Manfredi. Ma io ti devo beccare per veramente radio. Un'apparizione, eh. E godetevi questi istanti, perché secondo me saranno pochi. Vi sento proprio a sprazzi. È perché lui andrà e verrà un po' come faceva Filippo Pagotto nella prima serie. Ma in realtà, esatto, proprio così. Caro Marco, tu chi mi sei in status? Io chi ti sono? Io sono Giorgio in status. e notare la pronuncia, Giorgio, Giorgio, perché la dice siamo, lunga, certo, perché noi Bosco, siamo attori di un certo calibro, bravo, quindi Marco, bravo, parliamo in dizione. Un mastino. Giorgio del Lago Maggiore. No, vabbè. Io sono Giorgio del Lago Maggiore e solo che parlare del mio personaggio è un po' difficile, perché in realtà appena dici qualcosa è subito. Bellissimo, appena parli del tuo personaggio va via la linea. È meraviglioso. Avevi ragione, è difficile parlare del tuo personaggio. È molto difficile, appena uno ci prova, subito c'è una censura. Beh, quindi magari poi. No. Di prova. No, dicevo che a provare a parlare del mio personaggio si rischia subito di rivelare già qualcosa di troppo della, sì, della serie. Ah, solo a parlare. È un suspense talmente forte che insomma, non si può rovinare. Ma il nome si può dire? Giorgio. Hanno tutti Giorgio, solo il nome, appunto. Il cognome no. Ah, no, scusa, tu forse volevi dire che il mio personaggio è l'unico che non ha un cognome. Ah, vero? Ah, quindi no. Federico Maria ce l'ha. No, Francesco Maria Francesco non ha il cognome. Ce l'hanno solo Stoia, Giuliani e Fortunato Soccorso. Ma cosa te ne fai di un cognome? Ah, va bene, pensavo che anche Francesco Maria avesse un battesimo completo. Ma che te ne fai del cognome al cinema? No, ma infatti, per carità, io poi un personaggio così camaleontico. Giorgio guida tanto. Io non ricordo che guida. È in macchina, sì, vero? Lui trasporta. Wow. Ecco perché, vedi. Allora forse qualcosa ho capito. Ah. Cioè, c'ho dei sospetti, dei sospetti che verranno verificati lunedì prossimo, sì, in prima fila. Esatto, lunedì prossimo. Io sto tornando apposta. Ma davvero? Assolutamente. Tutta la reunion del cast. Io sarei stato in vacanza altri due mesi. Però, di fronte a questo evento, in realtà non potevo fare altro. Devi tornare anche per le responsabilità che ti legano all'Associazione Benemerita Culturale Chinodromo. Senti. Tutto vero, in effetti, però vedo che sono tenuto d'occhio molto bene, quindi bene. Anche i miei tentativi di fuga comunque hanno sempre vita breve. Adesso volendo, siccome poi lo so che qua con gli attori si fa la rimpatriata, si parla, chiacchiera, e poi finisce che io la mia domandina che volevo fare l'altra metà della trasmissione non la riesco a fare, adesso mi impunto e faccio la domandina, magari sì, appunto, mi rispondete anche insieme. La mia domanda riguarda com'è la scrittura in tre e com'è anche la direzione in tre, quindi sia nel processo creativo che poi nella direzione al pratico, il dialogo tra questa entità registica una e Trina. JJ. Parto io. Guarda, è andata, devo dire, molto bene, perché sul pilota, quello che girammo a marzo, abbiamo iniziato a scrivere il soggetto della stagione insieme, io, Renato e Margherita, e ci siamo trovati bene. Dopodiché si presentava il problema di come girare in tre una sola puntata. E perciò ci siamo divisi le scene. Ognuno ha girato e scritto, sceneggiato la sua scena. Ovviamente poi dopo abbiamo rimesso tutto insieme, abbiamo dato una specie di amalgamata per vedere che... Quindi ognuno aveva una penna di un colore diverso? Più o meno. Che bello! E poi invece sulla stagione, quando abbiamo vinto il concorso, ci siamo divisi le puntate, estraendole a sorte, perciò molto democraticamente, e ognuno ha scritto la sceneggiatura della sua puntata, che poi è anche la puntata che ha diretto. Poi facevamo delle riunioni tipo una volta ogni mese, dove, confrontando le sceneggiature, si diceva: guarda, in questa scena qua della tua puntata 7 magari la battuta di Fortunato non è molto in linea col personaggio che è venuto fino ad adesso. Tiravate i fili, miglioravano si smussavano un po' di angoli, ma devo dire che è stato un processo creativo molto fluido e molto bello. E quindi a questo punto ribalto a Manfredi la domanda. Esatto. È quindi voi attori vi siete trovati a lavorare sullo stesso progetto con com'è stata? Diciamo che è stato come lavorare al triplo dello sforzo, ma anche forse al triplo del risultato, perché quella omogeneità che loro avevano dato nello scritto c'era effettivamente, però poi quando loro ci dirigevano, ognuno ci dirigeva come voleva lui e come voleva il personaggio lui, quindi diventava un po' schizofrenico per noi, perché... Esatto, perché ogni tanto diciamo che nella puntata di Renato io dovevo essere in un modo, puntata di Davide in un altro, una puntata di Margherita in un altro ancora. Però dai, tutto questo è diventato una maggiore ricchezza del personaggio. Giorgio, sono diventati molto più complessi. Adesso faccio la domanda più insinuosa, più antipatica. Sì. Qual era il Giorgio che ti piaceva di più? Wow! Tappati le orecchie l'avanti. Vabbè, no, no. Devo dare la risposta diplomatica. Dai, andiamo a porci sto caffè l'avanti. Secondo me, allora, quello di Margherita era forse quello che mi piaceva di più, perché a lei Giorgio piaceva, secondo me. Mm. E quindi piaceva anche a me. Ma sei sempre un piacere. E poi andate. Scusami, Margherita c'ha il JJ, quindi scusatemi, la vera JJ. Sì, lei è la vera JJ, io sono sviluppato momentaneamente. Ma perché sei uno e trino in questa versione, quindi devi un po' anche. Assolutamente. Davide quello JJ di Davide Giuliani. Era, quello di Davide era il più cattivo, il più determinato, quello di Renato era il più simpatico, quindi non lo so cosa avrei preferito. Dipendeva dai giorni, no? Da come ti svegli, poi dopo... Come sei terrone. Mi dipende come mi sveglio la mattina. Allora, la mattina mi sveglio quando mi allontano da Bologna subito. Perché siete in Sardegna? Alla mattina. Vabbè, in Sardegna. Bella la Sardegna, spettacolo. Bene, io la mia domanda l'ho fatta, quindi sono a posto. Se c'è qualcos'altro di cui volete parlare. A che punto sei con la nave? Dove ti trovi? No, dobbiamo ancora partire. Infatti non so se sentite tutte le pompette dei materassini che si gonfiano, i cani che mi alzano le caviglie. Insomma, quindi arrivi martedì. Quindi arrivi. Quando arrivi? Devi partire ancora. Ma quando arrivi? Arrivo domani sera. Arrivo domani mattina. Livorno e poi con la mia Vespa arrivo fino da Livorno in Vespa. Hai la Vespa a Livorno? Sei un grande. Certo. Io l'ho sempre pensato che tu fossi un grande e questa cosa me la riconferma. Bene. Sono il pubblico le dici queste cose. Assolutamente. Ma lì il bello. Certo. Ok. Bene, io vado a vedere lunedì. Beh, anch'io. A sto punto. Io in prima fila, Pagotto dietro. No. Manfredi, tu dove ti metti? No, io di solito al bar. Un po' defilato così. Quando vedo le mie scene devo subito bere per dimenticare. Che poi sulla base di quello che ci hai detto, lì sarà estremamente evidente questa schizofrenia dei personaggi. Io sono curiosissima anche di questi scarti narrativi. Ma come? Scusa, allora non mi sono spiegato. Poi la nostra grande arte attoriale faceva sì che tutto prendesse una sua fluidità. Sì, che professionista. Sì, in realtà sono riusciti a tenere un'omogeneità notevole. Non pur riempiendo, cioè pur animando indicazioni così diverse. Sì, quindi sì. Diciamo che ogni personaggio era forse più vivo, perché ciascuno nella vita c'ha la giornata in cui è più cattivo, più cattivo, vero, più l'avanti. Molto vero. Io purtroppo sono stato indicato come il regista più cattivo e cinico. Più cinico. Ma tutto sommato nella storia del cinema i registi più cattivi sono anche quelli che hanno fatto le cose migliori, dai. Grazie. Che ma che bravo, questo è che bravissimo. Piluccatona. Complimenti. Ha sentito gli schizzi di Bava da qua, hanno superato essere diretti a registi diversi. Va bene. Uno tra il contentino. No, io d'attore ti capisco. Allora, mio carissimo ospite telefonico, sono contentissima di averti avuto qui, spero di averti anche in persona prossimamente, magari per promuovere la seconda serie o anche conoscerti e parlare dei tuoi progetti. E io volentieri. Adesso ti lascio andare alla tua partenza e ti saluto, perché qui siamo in chiusura della trasmissione. Attenzione, Io sono in partenza, quindi Bene. Le cose si incrociano. Non credo che prenderebbe. No. Marco, ci vediamo lunedì, mi raccomando. Al bar. Ci vediamo tutti al bar. Ciao. Sono io. Perfetto. Ciao. Guarda, questo lo segno. Ciao. Ciao. E qui noi ragazzi dobbiamo capire come chiudere la 189esima puntata di Coxo Spaziale, perché non abbiamo un pezzo, i pezzi sono andati. Io il pezzo lo posso anche mettere, c'ho pronto il pezzettino che dura anche tipo 4 minuti e mezzo, così il nostro caro super mega galattico ospite può andare via quei 5 minuti prima come mi aveva chiesto. Che vado in Cineteca a vedermi Dunkirk in 70 mm. Ma cosa fai qua? Scappa, corri, va via. 10 e mezza, dai, ce la puoi fare. C'è il traffico, parcheggio, ok, va bene. Nolan lì. Io posso ringraziarvi dell'invito, della simpatia, di avermi fatto rivedere Ivan Rizzotto dopo un annetto, la carambata che sorpresa. E saluto tutti gli ascoltatori, vi do appuntamento lunedì alle 9.30, alle 21.30. Tu dove ti siedi lunedì? Ma io penso che starò al bar vicino a Manfredi. Ma nessuno va sulla sdraietta? No, beh, insomma, magari sì, a dormire certo, dopo il quinto certo. Bianchetto. Allora facci anche sto scoop, Margherita e Renato dove, no, ero, sì, dove si mettono? Non lo so, secondo me anche loro al bar. Ti imbriachi. Cioè, di solito noi ci dirigiamo verso il bar dopo la presentazione, però no, in realtà devo dire che visto che è tanto che non la rivedo tutta insieme, potrebbe essere che lunedì mi sieda nella in prima fila anche tu, magari dai. In prima fila me la riguardo tutta, perché in effetti è tanto che non ci la rivedo. Sta. Vabbè, ma affrontare una propria creatura sì. È sempre sì, no. Poi al bar di prepotenza ci devastiamo, tiriamo giù il bar delle serre. L'Avanti, io ti ringrazio tantissimo per essere grazie stato qui in versione 1 e Trina e per aver vestito il JJ usurpato. Grazie a voi. Ringrazio anche Ivan per aver vestito il W e noi ci vediamo la settimana prossima con la 190esima puntata. Abbiamo fatto 190, ragazzi. Spettacolo. E qui io vi lascio con un branino dall'album, dall'ultimo album del mio gruppo preferito. Sì. Perché quando ci vuole, ci vuole. Adesso fatemi capire come si fa, perché lo mando da YouTube. Ma però beh, così. YouTube è abbastanza. Sì, bellissimo. Ciao. Ciao. Ciao. Proxy for a void he's ignoring. How good we could have it if we were together. I feel love should be enough to get it easily done. Maybe love is competition that makes us raise the bar and better ourselves. We could be so good if we work together. Maybe love is competition that makes us raise the bar. We better ourselves. I'm just here for the reciprocity to drop now.